gli speciali di Radio 24. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a questo speciale dedicato a quello che sta succedendo nel centro Italia. Ovviamente la vicenda dell'hotel Rigopiano, ancora sepolto dalla neve e dalle macerie, dove stanno arrivando con fatica i soccorritori e dove si temono molte vittime, e più in generale la situazione dell'emergenza nel centro Italia, dovuta alle fortissime nevicate delle scorse ore, degli scorsi giorni, e dovuta anche aggravata dalle quattro scosse di terremoto forti che ci sono state nella giornata di ieri, che ovviamente rendono tutto molto più difficile e molto più complicato. È uno speciale dunque, oggi non è in onda effetto giorno, vi continueremo ad aggiornare su tutto quello che sta succedendo tanto all'interno dei vari programmi, e poi alle 17 ci sarà un nuovo speciale al posto di Focus Economia. Vi ricordo che in questa occasione, così come avete fatto in Melog, potete telefonare se avete delle testimonianze, dei racconti, se avete sentito delle persone che si trovano in queste zone colpite, ci potete mandare dei messaggi via WhatsApp al 349-238-6666, via SMS, anche dei messaggi WhatsApp audio, anche se non riusciremo a mandarli subito, magari più avanti li recupereremo, e telefonare all'800 24 00 24. Iniziamo con la cronaca, soprattutto dall'hotel Rigopiano. Laura Bettini, eccoci, buongiorno. Buongiorno, facciamo sì insieme il punto di quanto sappiamo fino adesso. Allora, prima di tutto, il grosso dei soccorsi dovrebbe arrivare proprio in questi minuti. Nel corso della diretta che abbiamo fatto con Gianluca Nicoletti abbiamo letto, siamo a circa 700 metri dall'hotel, bene, è passata un'ora circa, insomma, quindi dovrebbero essere arrivati il grosso dei soccorsi all'hotel. Da quel momento in poi, quando arriveranno tutti, allora si potrà tranquillamente cominciare a cercare all'interno di ciò che resta di questo hotel, perché finora là sono arrivati soltanto gli uomini del soccorso alpino con gli sci, come Simone tu stamattina stesso avevi annunciato con una breaking news. Quindi insomma ovviamente le cose vanno vanno lentamente, ma perché le condizioni sono complesse. C'è ovviamente stata la valanga, ma comunque c'era già tantissima neve. L'albergo a quanto pare è stato addirittura spostato di circa 20 metri più avanti rispetto a dove si trovava da questa valanga, quindi insomma è tutto davvero molto difficile. Per quel che riguarda gli ospiti dell'albergo e i dipendenti, non ci sono conferme precise. Abbiamo sentito il prefetto di Pescara intervistato da Cristina Carpinelli, lui stesso diceva una trentina di persone, ma sono notizie di seconda mano che abbiamo avuto. Io ti fermo un attimo, Laura, prima di proseguire con questo aggiornamento, perché tu citavi appunto il prefetto di Pescara, Francesco Provolo. Dunque possiamo sentire l'intervista di Cristina Carpinelli per avere appunto proprio dal prefetto il quadro. Sentiamo. Dal tardo pomeriggio di ieri noi abbiamo avuto un messaggio di richiesta di aiuto da parte di due persone. Una era un cliente dell'albergo e l'altro il manomettentore facente parte dello staff dell'albergo. Da quel momento è partita tutta la macchina dei soccorsi, con delle difficoltà enormi, perché si tratta di una località in alta montagna, con strade impercorribili in maniera ovviamente assoluta. E infatti la carovana dei soccorsi con i mezzi adeguati sta arrivando sul posto proprio a momenti. Nel frattempo però ci siamo attivati per far arrivare i soccorsi in altro modo, ed è arrivato il soccorso alpino e i militari della Guardia di Finanza con gli sci, subito, e questo alle 4:30 di notte. Subito dopo è arrivato un drappello, fra virgolette, della dei Vigili del Fuoco, e stanno in questo momento assolvendo il compito di soccorso. E quante sono le persone ancora all'interno dell'hotel? Allora, le persone che sono all'interno di un hotel, da notizie avuto da questa persona che lavorava nell'albergo, mi ha detto qui in prefettura che lui si ricorda di aver visto una ventina di persone più qualche bambino, più erano presenti 7-8 persone dell'albergo, dello staff dell'albergo. Quindi sono notizie, come lei può capire, di terza mano, venute da una persona che ha visto delle cose, e io in questo modo non lo posso ufficializzare, però le giro questa notizia nel modo in cui l'ho ricevuta. Ma state cercando delle persone vive? Stiamo soccorrendoli. Vediamo che cosa succede. Si sentono le voci? Non rispondo a questa domanda. Nel corso delle prossime ore quindi continuerete a perlustrare l'hotel? Assolutamente, assolutamente. Noi ci muoveremo di là. Va bene. Senta, e questo dunque è il racconto del prefetto di Pescara, Francesco Provolo. È un racconto, ovviamente, è tutto in evoluzione, no? Questo è un racconto che risale a circa un'ora fa, e ovviamente lo stesso prefetto ha sostanzialmente delle notizie di seconda mano, perché è abbastanza difficile raggiungere anche telefonicamente quelle zone. Più avanti, poi, tra l'altro, nel corso di questo speciale ci proveremo. Allora, Laura, quali sono poi le ultime? Allora, le ultime, stavamo rileggendo così dettagliatamente questa agenzia che riguarda, che riferisce, diciamo, di una telefonata in cui la persona che si è salvata, Giampiero Parete, che si è salvata perché era nella sua auto ed è stata ritrovata nella sua auto ed è adesso ricoverato, ovviamente, perché era in condizioni di ipotermia. Comunque, Giampiero e tutti gli altri ospiti dell'albergo avevano pagato ed avevano raggiunto la hall. Questo ha raccontato il ristoratore, datore di lavoro di questo Giampiero Parete. Quindi tutti gli ospiti sarebbero stati nella hall. Allora la situazione, diciamo, dovrebbe essere tra virgolette facile, perché se erano nella hall potrebbe essere più facile individuarli, ma complicata, perché la hall è una delle parti che sono state distrutte. Siamo in linea con Luigi Di Giuseppe, che è presidente del CAI di Farindola, che è proprio il paese nel quale sorge l'albergo. Se non ho capito male, Di Giuseppe, lei in realtà non è là, però è in contatto stretto con le persone che stanno intervenendo. Eccoci. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Contatto è una parola grossa, poiché le comunicazioni non sono funzionanti a Farindola. Farindola sta senza l'energia elettrica da domenica e i ripetitori telefonici pare che siano andati giù. E quindi è un po' difficile. Io ho qualche notizia frammentaria che però, insomma, non è che può essere presa, come dire, per buona. Bisogna prenderle con le pinze, perché le notizie vere e proprie le potrebbero dare gli amici del soccorso alpino, che ringrazio perché sono dei veri eroi, che stanotte sono andati sopra a portare i primi soccorsi, quelli che si potevano portare, ovviamente con il bagaglio a spalle, con gli sci e con grande fatica. Quando da loro, è l'ultimo contatto che ha avuto con i soccorritori? No, i soccorritori non sono riusciti a contattarli. C'è stato, mi pare, proprio la vostra emittente che è riuscita a contattare il portavoce del soccorso alpino, socio Antonio Crocetta, che ha detto che al momento avevano tirato fuori solamente queste due persone e che per il resto non potevano dire niente. Non potevano dire niente. Lei ovviamente conosce benissimo la zona, perché il presidente del CAI, appunto, proprio di Farindola. Che quadro ci può dare da là? Ma guardi, io di questa grande slavina ho i miei dubbi, perché non è un ambiente in cui si possono generare grandi slavine. Secondo me c'è stato qualche cos'altro, però è tutto da verificare. Cioè, intende ovviamente probabilmente una frana? Può essere una frana, può essere, però insomma il costone che c'è sopra l'albergo non è molto lontano, quindi tutta quanta quella forza per demolire uno stabile grande come quello mi sembra un po' strano. Comunque, c'è qualcuno, Di Giuseppe, che dice che l'albergo si trova, e qualche ascoltatore ce l'ha anche scritto, in una posizione pericolosa in qualche modo. Beh, oddio, questo adesso affermarlo è un pochino, come dire, l'albergo sta là da parecchio tempo, è stato un periodo di tempo anche inattivo, poi è stato ristrutturato. Lei conosce, immagino, ovviamente i proprietari, i gestori di questo albergo, no? Sì, ho avuto modo di incontrarli. Allora, la ringrazio, grazie a Luigi Di Giuseppe, presidente del CAI di Farindola. Abbiamo in linea un altro soccorritore alpino, che però in questo caso è bloccato a sua volta. Si tratta di Davide De Carolis, che è bloccato a Santo Stefano di Sessanio. Siamo sempre nella stessa area, siamo molto poco distanti da quell'area là, a testimonianza di una situazione che è difficilissima, non solamente là dove si sta scavando per cercare di trovare, se possibile, qualche superstite a questa valanga che a questa slavina che ha investito l'albergo, ma insomma è una situazione difficile un po' in tutta l'area e un po' in tutto il centro Italia, o almeno quella parte del centro Italia. De Carolis, che cosa ci può raccontare da là, da Santo Stefano di Sessanio? Sì, buongiorno innanzitutto. Qui a Santo Stefano la situazione oggi è stato migliorato il tempo, per fortuna, questa notte ha nevicato pochissimo, adesso è ferma, quindi ne stiamo approfittando per cercare di pulire almeno le strade interne del paese con i mezzi che abbiamo. E la statale ancora elettricità ce l'avete? Elettricità ce l'avete? Elettricità solamente ieri è mancata per un po' di tempo, per fortuna la luce ce l'abbiamo. L'unico problema che sta sorgendo in queste ultime ore è l'acqua, nel senso che c'è stato un qualche guasto e non credo che si riuscirà a riparare a breve, quindi ci aspettiamo di rimanere senza acqua. Quello è un problema che sta nascendo proprio in queste ultime ore. Allora ringrazio. Per il resto non riusciamo ad avere molte, purtroppo non si riescono ad avere molte notizie. Siamo in attesa appunto che la provincia riesca a mandare dei mezzi, poi compatibilmente con una situazione che è abbastanza difficile un po' in tutta l'area, in tutto l'Abruzzo, anche appunto con tutti i vari incidenti. La situazione del Teramano è particolarmente grave, nei paesi sono totalmente isolati e senza luce da parecchie ore, da parecchi giorni. Sì, da giorni l'abbiamo raccontato, lo stiamo raccontando in queste ore, infatti anche di questo che parliamo e non solamente di quello che è successo a Farindola. Intanto grazie a Davide De Carolis, poi più avanti torneremo anche in altri comuni di quest'area e non solo comuni di quest'area. Intanto però mi voglio collegare con Andrea Viali da Roma per fare un punto, diciamo, proprio più generale, perché il Presidente del Consiglio Gentiloni si è incontrato col Capo della Protezione Civile Curcio, si sta cercando, come dire, di avere un quadro complessivo anche di come si possono muovere i soccorsi, evidentemente. Andrea, vai. Sì, è così, Simone. Di ritorno dalla sua visita a Berlino questa mattina, il presidente del Consiglio Gentiloni è arrivato a Rieti nella sede della Dicomat, che lo ricordiamo è il centro di coordinamento dei soccorsi che era stato allestito già dopo il sisma del 24 agosto. Ha partecipato il premier ad un vertice con il capo della protezione civile, come dicevi, per fare il punto della situazione. Poco fa ha parlato in conferenza stampa a Gentiloni, sottolineando che queste sono ore molto impegnative per la macchina della protezione civile, ore in cui ci sono state anche, non sono mancate delle polemiche, lo hai detto anche tu, per i ritardi nei soccorsi che sono stati ostacolati dalla neve, e a queste polemiche ha voluto replicare Gentiloni, il quale ha sottolineato un po' l'eccezionalità di quanto successo nelle ultime 24 ore. Ma sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare a te, Simone. Siamo di fronte a una sorta di tenaglia senza precedenti tra un fenomeno meteorologico di nevicate di un'intensità che non si ricordava addirittura da decenni, ha detto adesso il Presidente della Regione Abruzzo, in alcune aree del centro Italia, e dall'altra parte le scosse sismiche di ieri di un'intensità molto elevata. E dico una tenaglia perché purtroppo questi due fenomeni si amplificano a vicenda, perché come è naturale, come è ovvio, le scosse di terremoto inducono a cercare riparo all'esterno e le condizioni provocate dal fenomeno meteorologico, dalla nevicata storica, si potrebbe dire, di questi giorni, rende tutto questo molto difficile. Quindi di fronte a questa morsa tutte le istituzioni dello Stato si sono mobilitate, la Protezione Civile coordina da questa sala operativa l'attività di tutte le istituzioni civili e militari, da ieri abbiamo chiesto anche all'Esercito un impegno particolare, ma tutti sono impegnati al massimo delle loro possibilità. Così dunque il Presidente del Consiglio Gentiloni, come ci raccontava già Andrea Viali, forse non sarebbe nemmeno il momento delle polemiche, ma fatto sta che le polemiche ci sono e sono state anche alimentate poco fa dalla stessa Presidente della Camera, Laura Boldrini. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, non sono tollerabili inefficienze, ritardi sugli aiuti, le istituzioni devono assolutamente collaborare a tutti i livelli, lo dice il Presidente della Camera, Laura Boldrini, qui a Montecitorio sta incontrando in questo momento i presidenti delle regioni terremotate Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. E ha aggiunto anche sarebbe bene evitare inutili polemiche, ma intanto le polemiche continuano per il leader della Lega Matteo Salvini. Politicizzare la protezione civile affidandola ad un ex governatore trombato, questo è il termine che usa Salvini, è stato demenziale, si riferisce alla nomina a commissario delle zone terremotate di Vasco Errani. Forza Italia chiede un'informativa urgente al governo e alla Camera per evidenzia poi ritardi, opacità, inefficienze nell'azione dell'esecutivo, mancata prevenzione rispetto ai prevedibili peggioramenti climatici degli ultimi giorni, dicono dal partito di Silvio Berlusconi. Per Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle il simbolo di questo terremoto è il campanile di Amatrice, mai messo in sicurezza, infine crollato, e dice Di Maio: noi abbiamo votato il decreto sul terremoto, ma se collaborare vuol dire prendere in giro le persone, allora non ci stiamo. A te Simone. Allora, grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, mentre invece aggiornamenti arrivano dall'hotel Rigopiano, dove riferiscono i soccorritori dei Vigili del Fuoco che unità cinofile sono in azione, quindi sono in azione i cani, ma al momento non si sente nulla. C'è un'area privilegiata all'interno della struttura alberghiera dove si stanno facendo le ricerche, ma la zona di interesse è molto più ampia, si sviluppa per centinaia di metri e percorre tutta la massa della valanga. Dunque queste le ricerche che si stanno facendo all'hotel Rigopiano, appunto a Farindola, dove sono concentrati in questo momento, è concentrata tutta l'attenzione. Abbiamo sentito il Presidente del Consiglio Gentiloni parlare di un evento eccezionale. Vedo molte domande che ci arrivano da voi ascoltatori, ci chiedete tra le altre cose: ma perché non si potevano mettere in campo subito gli elicotteri per aiutare, in particolare gli elicotteri dell'esercito? Ebbene, queste sono domande e questioni poste anche al Presidente del Consiglio, alle quali cercheremo di rispondere subito dopo il traffico. Gli speciali di Radio 24. Ed eccoci di nuovo a questo speciale, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, da anche da Laura Faggina e Matteo Ramelli, che sono in assistenza in questo momento, Andrea Roccabella in regia. Questo speciale che stiamo dedicando a quello che sta succedendo nel centro Italia, questa emergenza a maltempo con il suo picco, se vogliamo, a Farindola, dove in un hotel ci sarebbero diverse persone sepolte sotto la neve. Abbiamo sentito poco fa il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parlare di sostanzialmente quello che è un evento eccezionale, descrivere questa grande nevicata come un evento eccezionale. Siamo in linea con Luca Mercalli, che è presidente della Società Meteorologica Italiana. Mercalli, buongiorno innanzitutto, e le giro la domanda che puoi immaginare: se è veramente un evento eccezionale quello al quale abbiamo assistito in questi giorni di forti nevicate nel centro Italia? Certamente un evento anomalo, sicuramente appartiene alle nevicate più importanti degli ultimi 30-40 anni. Come sempre, quando analizziamo degli episodi di così ampia portata territoriale, che quindi non riguardano una sola località ma intere regioni, ci vorranno mesi per fare i calcoli e i confronti e quindi pronunciarsi sulla reale eccezionalità oppure se ci sono stati eventi analoghi in passato. No, perché ovviamente purtroppo... Mercalli, tutto questo è dirimente, no? Anche per capire quanto i soccorsi siano stati efficaci, rapidi, certo, e via dicendo. Ma in ogni caso non lo si può dire adesso, ci vorranno mesi di lavoro, come se facciamo quando c'è un evento meteorologico importante, a caldo tutti si aspettano di poter dire eccezionale o no. Questo non si può fare quando uno prende il dato di una sola stazione meteorologica, tipo a Milano meno 25, guardi la serie dei dati e dici no, è la prima volta che accade, oppure ci sono state altre 10 casi negli ultimi 100 anni e più o meno si dà una risposta. In questo caso è difficile anche perché le misure della neve sono complicate, sono misure che devono essere fatte sempre in stazioni meteorologiche nello stesso luogo e quando c'è il vento la neve viene spostata. E in questi giorni con internet, un po' la novità anche della comunicazione degli ultimi anni, abbiamo una quantità enorme di numeri che sono sostanzialmente inaffidabili. Un conto è misurare la neve a spanne o perché si è accumulata con il vento in un anfratto tra due case e dire ci sono 4 metri di neve, un conto è misurarlo in una stazione meteorologica ufficiale dove c'è un'asta nivometrica certificata che viene osservata così in tutte le condizioni, sempre nello stesso punto. Gli unici dati per ora sicuri che abbiamo e afferiscono alla rete Meteomont, gestita dal Corpo Forestale dello Stato, sono di valori massimi attorno ai 2 metri. Questi sono i numeri che abbiamo. Questi sono i numeri ora che bisognerà abbiamo. Vedere sul lungo periodo i confronti con altri casi storici. Purtroppo molte stazioni meteorologiche hanno solo una ventina d'anni di dati e quindi sarà un gran lavoro definire il carattere di eccezionalità. Sicuramente il carattere di anomalia c'è. È ovvio che una nevicata di questo genere non capita tutti gli inverni, soprattutto anche per la sua durata, perché ormai questo maltempo diffuso in queste aree è in atto da una decina di giorni. La ringrazio, grazie a Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, per essere stato con noi. Allora, abbiamo già in linea il sottosegretario del Ministero della Difesa, Domenico Rossi, col quale vogliamo capire come sta agendo l'esercito in queste ore e magari girargli anche girare a lui un paio di domande dei nostri ascoltatori. Ma prima voglio parlare con Ludovico Marinacci, che è sindaco di Calascio, e siamo sostanzialmente sempre nella stessa area, un'area investita da questo evento, come ha definito Mercalli, anomalo. Marinacci, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. Come vanno le cose da voi? Beh, insomma, diciamo che essendo cessata la nevicata sono iniziate le operazioni per rimuovere la neve dalle strade provinciali. Finalmente sono arrivati al mio paese dalla strada provinciale di collegamento tra San Pio e Calascio, però insomma siamo in forte difficoltà. In mezzo ci sono delle strade terrificanti, però per darvi un'idea, Calascio è proprio a pochi chilometri in linea d'aria da Farindola, insomma, appunto da dove questa slavina ha investito l'hotel, no? Siamo là proprio. Sì, assolutamente. A poca distanza. Elettricità, come siete messi? Dunque, l'elettricità c'è mancata per l'intera giornata di ieri, poi nella tarda serata è stata ripristinata e fortunatamente non si sono avuti più dei distacchi. Quindi diciamo la situazione si sta abbastanza normalizzando, se così si può dire, perché insomma si rende conto che abbiamo un metro e mezzo di neve, anche due metri, lungo tutte le strade del paese. I paesi a me limitrofi addirittura non hanno ancora l'accesso liberato sulle provinciali, quindi insomma è una situazione di estrema criticità. Ci sono frazioni che non siete riusciti a raggiungere? Dunque, noi abbiamo la frazione di Rocca Calascio, dove sono un paio di famiglie residenti che vivono, e abbiamo ancora non siamo riusciti a raggiungerle. Siamo in contatto stretto con la provincia per vedere. Siete in contatto, mi scusi Maria, ci siete in contatto con loro anche? Cioè siete riusciti a contattarli oppure no? Sì, io ho parlato con alcuni familiari che diciamo vivono all'Aquila. E mi hanno rassicurato che insomma su ci sono un paio di persone, però stanno bene. E questa è una buona notizia. Grazie a Ludovico Marinacci, sindaco di Calascio, per essere stato con noi. Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno anche agli ascoltatori. Allora, che cosa avete messo in campo in queste ore? Ma che cosa non abbiamo messo in campo in queste ore? Forse è la risposta più semplice. Beh, intanto c'è da evidenziare che evidentemente l'esercito si muove a seguito di richieste che pervengono dalle prefetture responsabili o direttamente dalla protezione civile, e che, come è già stato evidenziato da chi ha parlato prima di me, c'è una sommatoria di tre situazioni emergenziali, cioè c'era la ricostruzione post terremoto, la nuova ondata sismica e per finire le proibitive condizioni meteorologiche a cui facevamo riferimento. In questo momento, per tutte queste tre esigenze, l'esercito ha schierato circa 2.400 uomini e circa 1.000 mezzi. Evidentemente ci sono degli uomini e dei mezzi specifici che si sono aggiunti nelle ultime 24 ore e altri che stanno ancora in afflusso proprio per quanto riguarda l'emergenza neve. Noi per questa emergenza finale, diciamo, tra ieri e oggi stiamo già schierando qualcosa come 150 mezzi specifici e quasi 450 persone. È chiaro che le emergenze, noi diamo le disponibilità alle prefetture e poi sono le prefetture che individuano sul territorio quelle che sono le priorità con cui impiegare i mezzi che diamo a disposizione. Sottosegretario Rossi, qualche ascoltatore scrive in merito soprattutto a quello che sta succedendo, a quello che è successo all'hotel Rigopiano. Dicono: beh, insomma, si potevano far muovere gli elicotteri dell'esercito subito, possono volare in qualsiasi condizione. Lei è anche un ex generale dell'esercito, forse ci può dare qualche indicazione su questo, perché non si alzano in volo gli elicotteri in situazioni di questo tipo? Guardi, diciamo così, le condizioni, le condimento relative al caso specifico erano effettivamente di carattere proibitivo, quindi anche i mezzi si possono muovere ma in determinate condizioni e situazioni, diciamo, come quelle di ieri erano effettivamente al limite. Erano al limite, naturalmente. Mi scusi, l'ultima domanda è un'altra domanda che sta montando, no, sul ritardo nei soccorsi. Poi forse questo riguarda un po' più la Protezione Civile che voi, ma visto che siete in campo anche voi. Ma, guardi, noi, diciamo così, nel momento in cui ci pervengono le richieste, evidentemente approntiamo immediatamente i mezzi disponibili e li mandiamo. Occorre sempre ricordare che evidentemente questi mezzi fanno parte di reparti che sono dislocati, diciamo, in varie parti d'Italia, quindi noi stiamo facendo affluire i mezzi non solo ovviamente dalle regioni più vicine, ma considerando per regioni vicine anche, non so, la Puglia o l'Emilia Romagna, ecco perché ad esempio le parlavo di mezzi in afflusso e di mezzi già arrivati. In ogni caso siamo già impegnati sulle province di Rieti, Teramo, Chieti, L'Aquila con dei mezzi speciali e solo per lanciare un segnale positivo, ecco, nella una delle frazioni di Amatrice, che non Misci, abbiamo proprio ieri permesso il recupero di una donna incinta e di un'anziana che erano bloccate. Questo a dimostrazione che gli interventi ovviamente sono rapidi, ma evidentemente bisogna essere nel posto e nel momento già dislocati. In parte è possibile, in parte no. Grazie al sottosegretario al Ministero della Difesa Domenico Rossi per essere stato con noi. Qualche ascoltatore ci scrive: sì, ma i gatti delle nevi, non bastano quando la neve è così tanta. 800 24 00 24, tra l'altro, se volete intervenire in diretta, oltre che scriverci su WhatsApp o via SMS. Paride Ciotti, sindaco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, buongiorno. Buongiorno. Siamo sempre in quell'area, la situazione da voi? Sì, la situazione da noi è tragica. Diciamo lo stesso, perché di neve ce n'è circa un paio di metri, e i mezzi non sono arrivati, solo quelli del comune. Non riesco a parlare con la provincia, con la responsabile, per mandare un mezzo speciale, perché o non mi risponde oppure è sempre occupato, e sì. Quindi ho il problema gravissimo per quanto riguarda l'energia elettrica, perché sono due giorni che sono senza corrente. Allora, adesso è arrivata una squadra dell'Enel, ma mi dice che il guasto è proprio, interessa è gravissimo, per cui ci vorranno giorni. Allora giorni addirittura. Allora aspetti un attimo Ciotti, perché abbiamo in linea anche Antonio Silveri, che è il sindaco del comune di Ofena, che credo che le stia mandando tra l'altro un trattore, un mezzo per aiutarla a sgomberare le strade. Silveri, in linea con noi? Sì, mi ero sentito, buongiorno a tutti, mi ero sentito poco fa sia con Paride Ciotti, pare che c'era possibilità di avere un trattore, ma comunque abbiamo reperito una squadra di ragazzi, ecco, di volontari che sperando di fare a mano un qualche cosa che possa portare almeno un gruppo piccolo per persone che ne hanno bisogno. A mano, cioè con le vanghe? Sì, perché ci risulta che c'è una persona malata comunque lì su Villa Santa Lucia e vorremmo comunque essere utili perlomeno per questa persona qui. Ci stiamo organizzando, stiamo cercando di contattare dei mezzi di privati, dei trattori molto grandi, anche se ci sono problemi di reperibilità. Tutto qui, ci stiamo muovendo su questa direzione perché attualmente sembra che sia la direzione più efficace, ecco. Restate un attimo là. Walter Milan, il coordinatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Buongiorno Milan, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Ci sente. Lei, da quel che ho capito, è a Farindola e addirittura là sul posto dove si stanno facendo le ricerche nell'hotel? Sì, esatto. Mi avete presentato come coordinatore, sono in realtà referente per l'ufficio stampa. Sì. E sì. Ad ogni modo, sì, siamo qui a lavoro, come sapete, da questa notte, dalle ultime ore della notte alle prime ore della mattina. Il lavoro continua in maniera molto importante. Abbiamo 30 dei nostri tecnici che stanno operando sulla valanga, abbiamo un'unità cinofila però sapete, il lavoro è molto, molto complesso. Questa valanga è lunga più di 300 metri di fronte e ha investito gran parte della struttura, per cui il lavoro è molto delicato. E ci sono accumuli che arrivano a 5 metri di altezza, quindi una quantità di neve veramente notevole. L'albergo è stato completamente raso al suolo? Sì, gran parte della struttura è completamente trasfigurata, è stata spostata di diversi metri proprio dalla forza d'urto della valanga, e la stessa valanga, prima di, diciamo, incocciare contro l'albergo, ha raso al suolo anche un bosco nei pendii superiori, quindi potete immaginare la forza di questa valanga. C'è chi parla addirittura di una frana vera e propria, non solo una valanga, perché no, la forza è stata talmente enorme, no, e l'impatto talmente violento. Sì, sicuramente. Poi comunque la neve, trascinandosi verso valle, porta con sé legname, alberi, a volte pietre, quindi acquisisce una forza ancora maggiore. Basti pensare, comunque, per dare un'idea, che un metro cubo di neve può arrivare a pesare una tonnellata circa. Per cui immaginatevi, sì, un fronte lungo 300 metri, che capacità distruttiva può avere. Senta, allora è stata estratta questa mattina una persona morta naturalmente da quell'albergo. Per il resto le ricerche proseguono. Mi sembra di capire che le speranze siano decisamente poche. Ma le speranze ci sono. Queste valanghe sono valanghe particolari, perché avendo investito un edificio possono crearsi delle sacche d'aria anche corpose, per cui noi lavoriamo come se fossimo, diciamo, al lavoro del primo minuto, e stiamo lavorando in maniera molto metodica e organizzata. Abbiamo suddiviso la zona di intervento in micro aree, e tutte queste micro aree vengono analizzate, censite, sondate dalle squadre dei nostri tecnici del soccorso alpino. Le unità cinofile hanno rilevato qualcosa al momento? Ma sicuramente sì, ci hanno portato subito verso i due feriti che sapete sono stati estratti nei primissimi momenti, quando le nostre squadre hanno raggiunto il fronte della valanga. E poi anche per i cani è abbastanza difficile operare, contando la specificità di questa valanga, che è a metà neve, metà reperti, parti di edificio. Comunque sicuramente i cani sono ausili preziosi per indirizzare poi i sondaggi più organizzati da parte dell'uomo. Per chiuderla, e nel ringraziarla per questo aggiornamento, per chiudere, il tema di quanta gente è riuscita ad arrivare là per intervenire sul luogo, cioè ci siete voi, sappiamo che c'è il soccorso alpino della Guardia di Finanza, poi abbiamo capito che i soccorritori hanno trovato molte difficoltà ad arrivare là, evidentemente. In questo momento possiamo dire che le squadre sono al completo oppure no? Sì. Ci sono state difficoltà ovviamente legate all'ambiente per raggiungere il luogo della valanga, però bisogna ricordare che al momento c'è il soccorso alpino con più di 30 tecnici al lavoro, però ci sono anche i vigili del fuoco, ci sono gli uomini della finanza, per cui diciamo le forze sono più che sufficienti. E il tempo per raggiungere il luogo dell'evento è stato dovuto alle condizioni veramente eccezionali delle strade. Abbiamo dovuto impiegare e chiedere all'ANAS, tramite il Dipartimento di Protezione Civile, una fresa molto grande per aprire la strada, e poi quando la fresa non ce l'ha più fatta abbiamo indossato gli sci e abbiamo proseguito come sappiamo fare noi del soccorso alpino con tecniche alpinistiche fino a raggiungere l'hotel. La ringrazio, grazie al portavoce dunque del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Walter Milan per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo e ringrazio anche Paride Ciotti, sindaco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, al quale auguriamo in bocca al lupo per questa giornata che si prospetta ancora difficile, così come Antonio Silveri del comune di Ofena, che sta cercando di andare in soccorso di questo suo collega, così come di altri, con appunto addirittura le pale per spalare la neve. Ci fermiamo, c'è una pausa, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo per altri aggiornamenti. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Gli speciali di Radio 24. Siamo quasi in chiusura di questo speciale. Tra poco la linea andrà a Mario Platero ed America 24 dopo una pausa per la viabilità. Gabriele Perfetti è il presidente della Croce Rossa abruzzese, viene da Campotosto e si sta dirigendo a Teramo nelle situazioni di viabilità difficilissime che abbiamo sentito, e venendo da un luogo nel quale il terremoto che c'è stato ieri ha colpito durissimo. Perfetti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, che quadro ci può dare da Campotosto? Ma il problema è proprio che le condizioni atmosferiche sono proibitive. Io vedo veramente tutti impegnati a portare soccorso, ma con questa neve non è affatto facile, soprattutto raggiungere anche quei posti da dove arrivano le richieste di soccorso, ma che non possono essere soddisfatte all'istante, perché è praticamente impossibile raggiungere queste persone. Lì dove comunque siamo riusciti ad intervenire, le richieste sono veramente tante, le prime sono anche i primi generi di prima necessità. Il Campotosto a Montereale in questo momento abbiamo una richiesta di acqua potabile, perché anche l'acqua non si può neanche più bere, e ci stiamo adoperando per far arrivare immediatamente dei bancali di acqua potabile in modo da soddisfare anche questo. Pensate di riuscirci entro quanto? Assolutamente sì, abbiamo già allertato il nostro interporto di Avezzano, dispone già di bancali pronti e tempo di farli partire, di raggiungere appunto sia Campotosto che Montereale. Cibo, elettricità ne hanno? Idem, come dicevo prima, molte di queste zone sono prive di energia elettrica, sono appunto collassate, cadute alcune linee, e il cibo sì, ma richiedono chiaramente cose calde che si possono immediatamente assimilare, sono persone molto provate, stanche, impaurite. Insomma, è tutto quanto un insieme di emozioni che non è facile neanche gestirle, guardi. Lo immagino. Senta, Perfetti, le frazioni sono state raggiunte tutte? Non tutte, assolutamente no. Purtroppo io vedo anche l'esercito che sta lavorando, ma notte e giorno, non si sono mai fermati. Il fatto è che quando ci si trova di fronte a dei muri di neve alti 2 metri, non è che anche con i mezzi più sofisticati si fa sempre molta fatica ad arrivare. Poi le persone hanno anche bisogno, ecco, di lavorare un po' in sicurezza, e devo dire molti lo stanno facendo neanche considerando questo aspetto. Rischiando loro stessi, in sostanza. Sì, assolutamente sì. Guardi, veramente è una corsa contro il tempo, ma soprattutto anche una lotta contro, come dire, gli eventi atmosferici e anche quelli naturali, che non ci sta risparmiando, veramente, sia Marche, Abruzzo e parte del Lazio. Siamo veramente in una condizione molto molto difficile, però facciamo del nostro meglio, cerchiamo anche di pensare a quello che sarà 24 a 48 ore, quando finalmente raggiungeremo tutte queste contrade, tutti questi territori dove effettivamente ci sono persone che chiedono aiuto, e lì dobbiamo essere pronti poi a garantire ulteriori e altri tipi di soccorso. La ringrazio, grazie a Gabriele Perfetti, presidente della Croce Rossa abruzzese, che si sta muovendo tra Campotosto e Teramo. Chiudiamo qua questo speciale, adesso c'è il traffico, Mario Platero, poi ci risentiamo alle 14 con GR24 e poi vi aggiorneremo costantemente alle 17, ci sarà un nuovo speciale.